fossi yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. È una fiction, dai servizi fotografici tipo calendario per la sposa al filmino prematrimoniale in stile riprese esterne di uomini e donne, per non parlare dei camerieri vestiti da soldati romani se servono la carne o da gondolieri se servono il pesce. Questo mi ha scritto esattamente 30 secondi fa Davide sulla mia pagina di Facebook, dove ho già lanciato il tema del giorno e già qualcuno mi sta rispondendo. Ho scritto: scarnifichiamo le liturgie matrimoniali, anche voi impastogliati nel rito sociale del simulacro dell'amore. Cosa voglio dire questa mattina? Voglio dire che stranamente ci si sposa tantissimo. Stranamente, per quanto ha senso, ha diluito il suo senso, l'unione indissolubile, tanto ci si sposa, tanto ci si può risposare tante volte, tanto tutto può essere ridiscusso. Questo non lo dicono soltanto i preti, ma lo dicono anche grandi laici, come non so, il sociologo Zygmunt Bauman attribuisce alle caratteristiche della società liquida il fatto che non esista più certezza anche nelle relazioni. Le relazioni possono essere sovrascritte ogni momento. Quindi il matrimonio in sé non avrebbe un senso cerimoniale così spiccato, tanto che se ne possono avere tante nella vita. Eppure, per paradosso, la gente spende sempre di più per sposarsi. La Federconsumatori dice che il 40% in più viene speso per sposarsi negli ultimi 7 anni. Circa 30.000 euro costa un matrimonio medio, con un 70, 80, 100 invitati. Non è una cosa del tutto distante dagli usi comuni, tanto che giorni fa il cardinal Bagnasco, nella sua omelia, che è presidente della CEDE, la Confederazione dei Vescovi, Arcivescovo di Genova, ha detto: siate più sobri quando vi sposate. Si rendono conto oggi che i matrimoni stanno diventando delle grandi rappresentazioni. Esiste il format del matrimonio. Il matrimonio deve essere fantasioso, non deve seguire soltanto quella che è una tradizione che attraverso i secoli si è andata a sedimentare, lo sposo che attende la sposa, il lancio del riso, gli auguri, il bacio, bacio, bacio, il piatto con la banana alla fine della cerimonia, tutte cose che ormai appartengono a un passato lontano. Oggi esiste una società specializzata nel rappresentare il rituale del matrimonio, che in realtà non rappresenta nulla di indissolubile, nel più fantasioso dei modi. E quindi 800240024, anche voi avete partecipato come vittime o come spettatori a qualcuna di queste fantasmagoriche esperienze, a questi talk show, a questi reality show della vita matrimoniale, perlomeno presunta. Dai, che il matrimonio è ancora il culmine delle attese di ogni fanciulla, anche cinquantenne. Dai, che l'industria matrimoniale ha raggiunto punte sublimi. Dai, che durante i matrimoni succede di tutto. Forza, signori, liberiamo il cafone che giace sopito in noi. Compriamo l'abituccio matrimoniale, con la bella giacchetta da romantico poeta, le belle scarpe lucidine a punta, il gel a tonnellate, le ciglia arricciate. Su, signore e signorine, mettete il cappello di Paris Hilton, la borsettina con lo strass. Vedrete che riuscirete a prenderlo al volo. Il bouquet della sposa in lancio spaziale. Altra esperienza personale, mi piace trasferire quello che è il mio punto di vista, per il valore può avere, che oggi gran parte delle mie amiche, colleghe, non dico coetanee ma quasi coetanee, quindi femmine realizzate di età media dai 30 ai 45 anni, ambiscono al matrimonio come completamento giusto della loro esistenza. Stranamente le donne vogliono tutte sposarsi, dopo aver vissuto, esperienziato, saggiato, capito, cercano un marito, cercano comunque uno straccio di marito, sanno che è importante sposarsi, vogliono farlo sempre con la riserva riserva di poter poi cambiare e rimettersi in gioco, però vogliono sposarsi. Sembra un passo indissolubile, sembra che antropologicamente non ci si sia liberati dalla necessità di ritualizzare l'unione, quando anche l'unione poi è continuamente riscritta, sovrascritta. Anche negli aspetti più moderni, più discussi, più problematici, oggi la contemporaneità si dibatte sui matrimoni omogenei, fatti tra uomini e tra donne, non assortiti, ma appartenenti allo stesso genere. Beh, anche qui la diversità, l'orgoglio dell'appartenenza a una scelta coraggiosa, a un genere di predilezione affettiva e sessuale che sfida le regole, poi va a ricadere nella più triste, nella più scontata delle regole. Sono queste terrificanti pantomime dei matrimoni di paese, in cui magari ci sono due spose, uno c'ha il tight rosa, o due spose si baciano e si abbracciano, tutte e due vestiti di bianco. Ma perché c'è questa necessità di ripetere l'orrido? E invece non si cerca quello che è l'aspetto profondo, l'aspetto di questa simbologia che in fondo fa fare a un uomo e una donna un patto di stare assieme, una cosa difficilissima, una cosa che richiede un grande sforzo di coscienza, un grande desiderio comunque di vincere ogni tentazione. No, l'aspetto esteriore è quello più importante, tanto che il Kodakons, di fronte al fluttuare dei prezzi di un matrimonio, soprattutto costano le riprese, una delle spese più grosse è l'aspetto riproduttivo di questo matrimonio. E guardate, il matrimonio nella prassi religiosa tradizionale ha come scopo principale la riproduzione, quindi il perpetrare della specie. In realtà la spesa maggiore è quella di riprodurre il matrimonio, di creare una sorta di simulacro elettronico di questa irrinunciabile giornata, e quindi si spende per fare film, per fare foto. Addirittura consigliano gli esperti cerimonieri di matrimonio di dare delle macchinette automatiche, quelle usa e getta, agli invitati, di modo che possano fare foto dei fotografi che fotografano, dei cineoperatori che ce ne riprendono, insomma che si crea una sorta di immortale orma elettronica di quel giorno indimenticabile. Sognate il matrimonio? Fate liste di nozze alternative? Il corso prematrimoniale per far contenti i vecchi? La vacanza tropicale o la crociera perché lui ha paura dell'aereo? Allora entrate nell'incubo che vi sigilla e vi titilla. Il nomadismo sentimentale è sceso nella tomba. La singolarità esistenziale si è tagliata le vene. Il matrimonio solleva. Il matrimonio fa bene alla pelle. Il matrimonio ci regala belle ferie matrimoniali, ci arreda la casetta, ci raddoppia la paghetta. Insomma, raccontateci come sia faticoso entrare nel meraviglioso mondo dell'amore indissolubile. Dell'amore indissolubile che però ha come regola fissa il fatto che non sia indissolubile. Tutti si sposano sapendo che non sarà indissolubile, sperando che non sarà indissolubile, nemmeno passa lontanamente l'idea che sia indissolubile. Ma sembra quasi che questa mancanza di certezza, questa futilità, questa liquidità del rapporto sia compensata da una crescita esponenziale dell'aspetto scenografico, dell'aspetto fittizio, dell'aspetto teatrale. 800240024, vi leggo qualche messaggio degli amici di Facebook, il social network, sono quelli che in questo momento ci ascoltano tramite il computer, stanno lavorando, non hanno colpa loro se non posso tenere una radio accesa, ma ci seguono comunque, con sotterfugi, con mezzi di fortuna. Vediamo cosa dicono. Dice Salva: ho partecipato recente a un matrimonio in Canada, le bomboniere vengono distribuite prima di sedersi ai tavoli assegnati nel salone dei ricevimenti. Contestualmente si deposita l'obolo regalo all'interno di un'urna. In quell'occasione raccolto $45,000. La raccolta dei soldi funziona come il taglio della cravatta. Poi, andando avanti, Ezio: ho vissuto diversi matrimoni da vittima, ma fondamentalmente considero il rituale un'ottima occasione per mangiare, quasi a scrocco, annoiarmi con amici che non vedo da tempo. Tutto sommato non è così male. Lei adorava le auto d'epoca, io sognavo un matrimonio in grande stile. Abbiamo scelto Foto perché è l'organizzazione più completa di tutta la regione. Offre agli sposi il suo parco vetture da cerimonia, i servizi video e fotografici, con effetti e realizzazioni particolari, e tanti suggerimenti perché il vostro sì sia sempre originale e diverso dagli altri. In Campania, l'organizzazione più completa e professionale al servizio del matrimonio. Questo è uno spot preso dalla rete di un'agenzia che cura l'aspetto scenografico, l'aspetto fantasioso, l'aspetto di costruzione meravigliosa del giorno del sì. A Sara e Marco, A Francesco e Luana. A Barbara e Antonio. A Luca e Roberta. Foto ringrazia tutti gli sposi che hanno preferito la qualità dei suoi servizi e a tutti quelli che lo sceglieranno. Servizi foto e video per un giorno indelebile. Cominciamo a parlare con degli esperti, visto che l'aspetto scenografico del matrimonio è quello che oggi ci interessa, è la costruzione cinematografica, è il trasformare in fiction un giorno indimenticabile. Abbiamo al telefono il signor Michele Belvedere, che mi pare sia un esperto. Lei è una società, un'agenzia, un'organizzazione che cura matrimoni da sogno, vero? Sì, buongiorno. Buongiorno. Noi a Napoli, in Campania, lavoriamo tantissimo perché abbiamo parecchie idee, parecchie fantasie, specie sui video, facciamo parecchi matrimoni. Senta, ma queste idee bisogna cambiarle ogni anno, è un po' come i format televisivi. Ogni mese bisogna cambiare, non possiamo mai fare le cose uguali, è sempre le cose diverse l'una dall'altra. Io sto vedendo il vostro catalogo, fate anche i matrimoni in elicottero. Sì. Chi lo vuole possiamo affittare un elicottero. Ma come funziona? Gli sposi scendono con l'elicottero davanti alla chiesa? Allora, dopo la chiesa troviamo uno spazio, dove sono sposati in chiesa, troviamo uno spazio all'interno della chiesa. Un eliporto ci vuole? No, non c'è bisogno, uno spazio, un campo sportivo, una piazza all'interno della chiesa. Poi saliamo nell'elicottero e poi ci porta a Capri oppure a Ischia, a scelta degli sposi, così andiamo a facciamo le foto, siamo nel mezz'oretta e quarto d'ora a Capri e Ischia. O Capri o Ischia, e gli invitati che nel frattempo gli invitati che fanno? Nel frattempo gli invitati con le auto vanno al ristorante e aspettano il ristorante quando arrivano gli sposi. Ah, quindi è un tempo morto che riempite con il viaggio in elicottero? Sì, ma qualche volta qualcuno che vuole spendere qualcosa di soldi. Io vedo nella lista c'è anche un treppiedi in arte povera, che serve? Per mettere l'album sopra oppure la foto sul legno, un poster dopo, o lo portiamo sul ristorante, lo mettiamo all'ingresso del ristorante oppure dopo lo consigliamo agli sposi per mettere il sapone. Una ricerca a scelta di fantastica auto, ci sono BMW 530. Esatto, noi abbiamo tantissime auto e siamo attrezzati anche con parco auto, infatti a Napoli siamo un po' più organizzati di tutti quanti gli altri. L'aspetto filmato, dice il Kodakons che l'aspetto in cui più si spende è il momento in cui si vuole fare il film del matrimonio, quindi telecamere, cineprese, operatori. Che tipo di servizio fornite in questo caso? Facciamo le riprese la mattina dallo sposo, poi andiamo dalla sposa. Anzi, facciamo prima l'anteprima, che il giorno prima, come una specie come quando si conoscono, al limite si può proiettare anche sul ristorante durante la cerimonia. Quindi girate una fiction di come sono conosciuti? Sì, facciamo come si fossero conosciuti, poi sul ristorante facciamo alcune riprese, le portiamo al nostro laboratorio di montaggio. Ma in questo caso, mi scusi, c'è uno sceneggiatore, come suggerite agli sposi cosa devono dire? Dove li portate? No, ci sono varie ville qua a Napoli, e noi siamo attrezzati per sapere, li portiamo a Napoli, Caracciolo. Quindi mi scusi, per capire, è una visione fantastica, questi magari vivono in una casetta di due stanze, però immagino di essersi conosciuti in una villa, funziona così? Sì, ma a volte sono loro che decidono di ci siamo conosciuti in questo posto qua, a Napoli, per strada, oppure in qualche paese, e noi li accontentiamo, andiamo dove loro sono conosciuti, facciamo queste riprese. E loro lì cosa fanno? Fanno finta di incontrarsi? Ciao, come stai? Prima facciamo delle riprese fatte a soli, poi fanno finta di conoscersi, una volta in un modo, una volta in un altro modo, li facciamo conoscere, poi dopo facciamo una specie di film proprio. Ecco, e questa soap del matrimonio poi la proiettate il giorno delle nozze? Il giorno delle nozze proiettiamo qualche scena dell'anteprima, sì, l'anteprima è qualche scena del matrimonio che facciamo di mattina, che poi alla sera sul ristorante prima della torta le proiettiamo con uno schermo gigante con un profilo. Quindi è proprio un reality show, uno partecipa, esatto, a un matrimonio e allo stesso tempo vede il film della sua partecipazione. Sì, stessa la sera sul ristorante proiettiamo questo filmato. Ma qual è la cosa più strana che le hanno chiesto, che le è capitato di dover fare? Adesso ultimamente abbiamo fatto un'anteprima, come ci hanno chiesto di fare c'è posto per te, allora abbiamo preso una nostra commessa, abbiamo portato le partecipazioni casa per casa e prossimamente proiettiamo pure sul ristorante questa anteprima, queste partecipazioni come posto per te, eccetera eccetera. Quindi non proprio un format, lei ha preso il format di Maria De Filippi e l'ha fatto così, ci hanno cercato, così stiamo accontentando. Quindi il modello è pur sempre la televisione, la vita si ispira ormai alla televisione. Sì, infatti noi lavoriamo tantissimo perché facciamo tantissima pubblicità televisiva, infatti ogni matrimonio che noi facciamo prendiamo 2-3 minuti di ogni matrimonio e facciamo una cassetta di mezz'ora. Questa mezz'ora mettiamo una decina di matrimoni, ogni sposa si vede per televisione, vari canali nazionali a Napoli. Quindi lei si è inventato un format televisivo, il matrimonio dal produttore al consumatore praticamente. Cambiamo la cassetta e mettiamo 10-15 spose alla volta e loro si vedono anche per televisione, fanno vedere anche gli invitati, si sintonizzano sul canale che non gli diciamo e così si guardano anche per televisione. E questo aiuta secondo lei, sì? Sì, e noi così lo vogliamo un po' di più. Va bene, auguri, in bocca al lupo, signor Michele. Sì. Abbiamo invece adesso al telefono Alessio. Pronto, buongiorno Nicoletti. Ecco, lei ha un altro tipo di esperienza, lei è un esperto in cosa? In essere invitato a matrimoni, invitato professionista? No, io non sono un esperto, ma penso come lei e come tutti gli ascoltatori, ogni tanto gli capita di essere invitati in queste, diciamo un po'... ridicoli riti matrimoniali un po'... Ma perché dice ridicoli? Scusi, io non sono molto d'accordo perché molte volte noi ci poniamo in atteggiamenti quasi snobistici, fanno parte della nostra epoca, la nostra è un'epoca che vive di riflesso rispetto a modelli televisivi, la gente si sposa e pensa che la collocazione più degna, più interessante e più eterna del proprio sogno d'amore sia il matrimonio di Maria De Filippi, c'è posta per te. Ma io per quanto mi riguarda posso benissimo farne a meno e comunque vivere felicemente la mia vita in sentimento con la mia compagna. Ma figuriamoci, questo è fuori discussione. Nel senso che mi è capitato spesso di essere invitato a queste cerimonie sontuose e molto dispendiose, proprio dove comunque è necessaria una vera colletta per mettere in piedi questo matrimonio. Poi magari la coppia, non so, 100 invitati, poi ti capita di non rivederli per un po' di tempo, li incontri dopo un paio d'anni dove lei spinge già il passeggino, ma dove senti che magari sono già in piedi pratiche legali di separazione. Beh, guardi, pratiche in piedi ci sono molte volte anche durante il matrimonio, durante la cerimonia, durante il pranzo, esiste una trattatistica metropolitana su questo, ma questo non inficia al fatto il desiderio di fare una meravigliosa cerimonia, costi quel che costi. La saluto e ho al telefono adesso un ospite molto interessante. Nadia Colaiuda è titolare di un'agenzia Agustea. Buongiorno signora. Buongiorno. Lei organizza matrimoni finti? Anche sì. Spieghi com'è, perché no, è molto interessante. Noi abbiamo visto che il matrimonio... Senta, poi si trattiene anche un minuto dopo la pausa per la borsa, perché è un argomento che vorrei approfondire. Cominciamo finché abbiamo tempo. Esiste possibilità di sposarsi, seguendo modelli artificiali da televisione, ma esiste possibilità di sposarsi anche senza sposarsi. Ci spieghi intanto, comincia a spiegarci cosa significa. Beh, io parto da questo servizio che noi abbiamo messo in piedi e che abbiamo lanciato quest'anno, che deriva dalla nostra esperienza ormai ventennale nell'organizzazione di eventi, di viaggi di incentivazione e di turismo di alto livello. Abbiamo messo in piedi quello che noi abbiamo diciamo registrato come marchio, la cerimonia del sì, ed è una cerimonia che non necessariamente è un matrimonio né un'unione legale, ma è solo ed esclusivamente una festa privata che viene diciamo richiesta da coppie etero e può sfociare successivamente in un vero matrimonio. C'è un invitato che non lo sa, può anche pensare sia un vero matrimonio, perché è identico. Beh, questo potrebbe anche pensarlo, ma è una cosa esclusivamente privata, quindi questo sta negli sposi, voglio dire. Quindi c'è la torta, la sposa, meno, testimoni. C'è torta, sposo, sposa, vestiti. Certo, è una vera e propria festa, è un voto, un solenne giuramento, una promessa. Il sindaco è un attore, è finto. Prego? Il sindaco con la fascia è finto, è un attore. Certo, non c'è dubbio. Ma l'attore prete questo... esiste? Prego? A richiesta potrebbe avere un prete finto. Prete no. No, finto, un attore che fa finta. No, perché non vogliamo sfociare sicuramente nel blasfemo. Si tratta di ricreare delle situazioni che danno origine alla possibilità di fornire una promessa d'amore ai, diciamo, promessi sposi o comunque anche indipendentemente, questa è una cosa che ci terrei a, assolutamente a precisare, è che la cerimonia è accessibile a tutti, non importa chi sono i promessi sposi, anche dello stesso sesso. Allora signora, siccome l'argomento mi sembra veramente interessante, attenda soltanto un minuto, mandiamo le notizie alla borsa, poi riprendiamo il matrimonio sceneggiato, mi sembra la punta più alta della cerimonia, senza naturalmente un corrispettivo sostanziale, ma che il mondo contemporaneo, il mondo della rappresentazione della televisione ha felicemente ideato. Io Jessica prendo De Ivano come mio. Ma che te sei leggenda? Attenzione. Una botta di tensione, scusatemi. Oh. Io Ivano prendo te Jessica come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della vita mia. Io Jessica prendo te Ivano come mio sposo e prometto di esserti felice sempre nella... Fedele. Fedele. Fedele. Fedele, oh, già ci provo. Beh, oh, mi sono sbagliata. Ti sei sbagliato pure te. È proprio De Goccio. Ieri la sapeva. Nella gioia e nel dolore, nella salute. Non c'è soltanto il matrimonio burino di Verdone e della Gerini in Viaggi di nozze, ma esiste una gamma raffinatissima di persone che scelgono dei matrimoni costruiti, immaginati, fantasmagorici. Il modello sono sempre i matrimoni artificiali in televisione che diventano realtà o per fissare un'artificialità. Vi leggo qualche messaggio, intanto vi istigo felicemente, fortemente, sentitamente a telefonare all'800 24 0024. Vediamo un po', sto scorrendo. Anna, sposarsi dopo una vita assieme come cantava Brassens nella Marche Nuziale. Io ci sono riuscita, dopo 12 anni di convivenza ne vado fiera. Ecco, una delle signorine, signore, ex signorine di cui vi parlavo, che finalmente riescono a sposarsi, riescono a concludere questo sogno che sembrava così lontano dalla contemporaneità, ma in realtà è così radicato. Poi c'era una cosa che mi interessava, vediamo se riesco a ritrovarla. Ezio, ho vissuto due matrimoni da vittima, ma fondamentalmente considero il rituale un'ottima occasione. Questo già l'avevo letto. E vabbè, andiamo avanti. Vi avevo detto che ci eravamo interrotti con la signora Nadia Colaiuda, che organizza matrimoni sotto un format da lei brevettato chiamato Cerimonia del Sì. Sono matrimoni rappresentati con attori, con location, con situazioni drammaturgiche di alta tensione, ma che in realtà non hanno nessun valore reale, perché nessuno ci si sposa e il sindaco è un attore. Rieccoci signora Colaiuda. No, c'eravamo soffermati un attimo sulle tipologie di persone che lei sposa per fiction. L'aveva detto, a volte sono, ma non sempre, anche coppie omosessuali che possono celebrare tranquillamente il rituale del loro matrimonio, oppure sono stranieri, mi pare, che non hanno... Esattamente, anche sì. E infatti questa idea è nata proprio da... in realtà dall'organizzazione dei matrimoni in piena regola, che molto spesso vengono effettuati in Italia, ma che talvolta sono già stati celebrati nel paese di origine e che vengono riportati in Italia proprio per l'esigenza di fare una festa con i propri amici che non si sono potuti invitare magari durante il matrimonio reale, e quindi insieme si vuole rivivere il momento della promessa di quindi termamore. Perché la festa sia bella deve essere una festa a tema, ci deve essere un dress code, cioè devono essere vestiti da invitati. Questo invitati. Dipende da quello che viene poi stabilito con gli sposi, nel senso che si possono fare veramente tantissime cose in base a quella che è la nostra creatività. Ecco, mi faccio degli esempi di creatività. Io immagino che gli stranieri vorranno, che ne so, il matrimonio cingalese o il matrimonio... No, guardi, in Italia soprattutto si lavora con quello che noi abbiamo di risorsa, che è la nostra meravigliosa, stupenda penisola. Quindi se andiamo sul classico soprattutto? Andiamo sul classico, ma amano molto per esempio anche le feste rurali, le feste di campagna, i giardini, le ville. Poi dipende sempre anche dal budget, perché non necessariamente per fare una bella festa bisogna avere dei budget sontuosissimi. Sì, ma la vera botta di vita quale sarebbe? Mi dica il massimo che io potrei aspirare, non so... Posso avere anche delle comparse invitati, non so, donne bellissime, uomini con le catene d'ambasciatori, se voglio far finta di avere grandi amici altolocati. Siamo anche per dire fornire dei sosie di attori e ricreare una festa hollywoodiana, nulla vieta, tutto rispetto, alla creatività non ci sono limiti. Ah, quindi sono dei sosie che io posso far finta che ho magari un grande attore al mio matrimonio? Certamente, certamente. E sono uguali, identici, confondibili, diciamo. Quasi, sì, sono i sosie che poi vengono utilizzati spesso anche nelle trasmissioni televisive, ovviamente. Ma anche comparse, posso chiederle, voglio 30 comparse bellissime, certo. Perché ho tutti amici schifosi. Certo, se lei ha il budget per poterlo fare. No, lei faccia finta che ho budget illimitato, le faccio richieste, voglio sapere fin dove arriva. Allora, quindi lei può fornirmi invitati di grande lusso. Sì, noi partiamo dall'arrivo degli invitati, dal trasporto o con limousine, con macchine d'epoca, spider, talvolta. Cioè voglio far schiattare i miei colleghi, voglio vedere arrivare invitati ricchissimi, danarosissimi, con donne bellissime. Questo si può avere pagando. Certo, perché no? Facendo finta di, ovviamente. E se le chiedo, voglio un cardinale fra gli invitati? Però, insomma, chiaramente deve essere pago. Tutto nei limiti di quello che... No, no, nulla di blasfemo. Come le dicevo prima, niente di blasfemo. No, è no, no. Feste, no, serio, lì, che sta lì, tranquillo. Ci si trucca da personaggi storici, da personaggi inventati. Matrimonio antica Roma, posso farlo? Certo, sì, sì, come no. Con i gladiatori, le ancelle. Medioevo un po' più magari triste, rinascimentale, in stile veneziano, lo abbiamo fatto per esempio a Venezia portando gli ospiti in gondola, vestiti, addirittura facciamo trovare i sarti in albergo che confezionano e adattano gli abiti del Settecento agli ospiti e che poi vengono accolti dalle... No, pensavo che il matrimonio medievale presupporrebbe anche un signorotto che applica lo ius prime noctis, non so quanto sarebbe poi gradito, ma se volessi potrei avere anche quello. Lo ius prime noctis, no, quello non se lo chiedo, compete. pago. Quello non ci compete. No, no, pagando, per avere una sceneggiatura completa e immedesimata nell'epoca. Poi vediamo, guardi d'onore, non so, soldati con le sciabole che fanno il ponte d'onore, questo si può avere? Sì, abbiamo fatto anche... diciamo prelevando questo dagli eventi aziendali, quindi dai viaggi di incentivazione, abbiamo ricreato anche delle vere e proprie feste con cavalieri, cavalli, con giochi, perché non trascuriamo il fatto che talvolta, per esempio, all'interno di queste feste ci sono delle piccole sottofeste dedicate per esempio ai bambini, per cui giochi per i bambini, è veramente un momento che vuole essere un momento di gioia. E poi c'è la cosa meravigliosa, si torna a casa, ci si può anche lasciare, tanto non si è sposati, non bisogna andare dall'avvocato. Questo sì, però è una promessa comunque di amore per tutta la vita, teoricamente bisognerebbe essere anche coerenti con questa promessa. Sì, va bene signora, salute e arrivederci, grazie. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Non tema la sega, parli pure tranquillamente. Va bene. Allora, premetto che mi è capitato di partecipare a tutti i tipi di matrimonio, compresi quelli con i paggi, con le clarine che accoglievano gli sposi. E chi erano i fortunati sposi, che erano amici suoi? Sì, erano figli di amici. Molto ricchi? No, assolutamente, persone normalissime che però avevano voluto organizzare questo grande pranzo che è andato avanti per ore, con a mezzanotte pasta e fagioli, dopo la torta nuziale, cose così. Non credo che sia la cosa più adatta per una prima notte di nozze, onestamente. No, vabbè, non vorrei scendere in particolari. Uno spera che ce ne siano altre, anche se in quella stagione... Nello stesso, diciamo, ristorante molto grande, così, c'erano altre sale, si sposava un'altra coppia e la sera abbiamo sentito una lite furiosa per chi doveva pagare, tra i genitori di lui, i genitori di lei, eccetera, e gli sposi si sono lasciati. Ah, un sano scannamento in famiglia. Sì. Ma una cosa veramente urla bestiali, la sposa che urlava hai rovinato il giorno più bello della mia vita, eccetera. Guarda, io voglio sperare che sia stata un format della signora che ha parlato prima, che gli hanno chiesto vogliamo un matrimonio con litigio dei genitori, perché sia più realistico. Ormai tanto la linea di discrimine fra reale e irreale mi sembra talmente indecifrabile. Era vero e terribile. Mi dice Piera, mi suggerisce Piera Malandrina, di una nota leggenda metropolitana in cui ognuno giura che c'ha avuto un cugino che ha partecipato a una cerimonia di nozze, in cui poi è stata trovata la sposa nella toilette col testimonio, viceversa lo sposo con la valletta, con la damigella, e è successa una rissa finale fra invitati? Questa comunque è un aspetto. Dare luogo, data. Ah, perché lei ha assistito anche a questo? E testimoni, sì, della lite. No, non di quelli trovati nella toletta, della mia lite. Ah, della sua lite. Sì. E niente, però io chiamavo a proposito di quell'altra questione che avete trattato, cioè dei matrimoni finti o pseudotali, perché io so addirittura di matrimoni con un attore che fa il prete. A dove avvengono questi? No, grande notizia. Che avvengono qui a Roma, perché io ho la, diciamo, la fortuna di poter usufruire di dei servizi e dell'amicizia di parrucchiere giapponesi. Ah, quindi cioè, a Roma lei mi dice che ci sono dei matrimoni con un attore che fa il prete per i giapponesi? Sì, sì, sì. Dunque, a volte mi è capitato, andando da loro, di vedere delle spose bellissime, abiti bianchi con strascico, eccetera. E dove si sposano? In chiese ufficialmente riconosciuto? Consacrate. In chiese sconsacrate. Quindi la pantomima del matrimonio, a onta di quello che è stato detto prima, a Roma avviene con attori che fanno anche il prete, per la gioia dei giapponesi che magari sono shintoisti, non gliene importa assolutamente niente, ma vogliono questo tipo di sensazione. Grazie signora, ci stiamo infiltrando nel mondo dei matrimoni simulati. Ha proprio ragione il cardinal Bagnasco, siate più seri quando vi sposate. Stiamo degradando lentamente dal matrimonio come fiction anticipatoria, tutta la storia d'amore che ha portato al matrimonio. Il signore Napoletano ci racconta delle soap che lui riesce a creare con le storie di fidanzamento, poi vengono proiettate durante il matrimonio, ma ancora un matrimonio vero, fatto con un prete. Poi esiste il matrimonio finto, con attori che fanno anche il prete, come ha detto l'ultima signora, pur di avere il frisson quotidiano, una grande cerimonia d'amore con sposa, abiti, prete, benedizione, giapponesi, le dice, ma non so se ci saranno altre persone, vengono a Roma, nella città eterna, e prendono un attore che fa anche il prete e si sposano. Qualcosa che non ha nessun senso nella loro visione della vita e nel loro senso religioso dell'esistenza, ma comunque conservano l'aspetto folcloristico esteriore. La cerimonia si è staccata realmente da ciò che il rito dovrebbe rappresentare, una sorta di legame assoluto rispetto a una volontà terrena. E poi andiamo ancora avanti, perché entriamo nel mondo indecifrabile e sconosciuto del non matrimonio. Ciao, io sono Alessio, ho 33 anni e la mia amica si chiama Marianna e ne ha altrettanti. Siamo da molto tempo convinti che almeno io e lei non ci sposeremo e siamo altrettanto arrabbiati e troviamo profondamente ingiusto che i nostri amici si debbano sposare e poi si ritrovano a casa, soprattutto questo aspetto, lavatrice, aspirapolveri, televisori, stereo, divani, arredamenti di design e quant'altro, che sono i regali delle liste di nozze. Allora abbiamo deciso di istituire il non matrimonio, o meglio, del resto il matrimonio che cos'è? Due persone che chiamano altre persone a partecipare a una promessa, a una decisione, quella di sposarsi. Noi vorremmo fare altrettanto, finalmente. Trascurabile per questo signore l'aspetto civile, l'aspetto religioso, l'aspetto, questo legame comunque ha una sua proiezione nella società, una sua proiezione in una visione superiore dell'esistenza per chi ce l'abbia. Per lui il matrimonio è giustamente una grande cerimonia sociale, sembra che ce lo stiano confermando le testimonianze che abbiamo preso, ma noi guardiamo sempre il lato spiacevole, il lato urticante, il lato cattivo della realtà, siamo degli spiriti malvagi, e quindi naturalmente esisteranno anche, molti mi stanno chiamando, l'aspetto romantico, l'aspetto importante, l'aspetto profondo, ma in questo momento noi guardiamo il lato oscuro della forza. Beh, esiste anche un fatto indubbio, che il matrimonio serve ad arredare casa, serve ad avere tanti frullatori, aspirapolveri, servizi di piatti, di caffettiere, di caccoliere, delle cose più strane che non si sa mai perché ce le regalano, che però arredano casa. Beh, chi non si sposa eppure sta insieme non ha diritto di avere queste cose, e allora celebra il non matrimonio. Quindi abbiamo deciso che nella prossima primavera, il 14 di maggio, noi non ci sposeremo e siete tutti invitati al nostro non matrimonio. Il rito sarà un qualcosa molto probabilmente fuori dal Campidoglio, per sottolineare che è un non matrimonio e quindi un'unione fuori dal comune. Non saremo dichiarati marito e moglie, non ci prometteremo fedeltà eterna e non ci scambieremo gli anelli, ma per il resto vorremmo gli stessi invitati, una bella lista di nozze e dei regali per poterci aiutare, affinché i nostri amici e i nostri parenti ci aiutino in questo percorso che non faremo insieme. Siamo convinti di questo, a quel punto c'è una certezza su tutto, che non ci lasceremo mai. Beh, io trovo che il non matrimonio sia molto più onesto del matrimonio tarocco, del matrimonio finto, del matrimonio fatto per convenzione, di chi si sposa senza amarsi, di chi si sposa per interesse, di chi si sposa per fare contenti i genitori. Papà e mamma avrebbero un dolore troppo grosso. Quante amiche ho che stanno facendo il corso prematrimoniale con un uomo che non amano, ma comunque hanno deciso che in fondo hanno una certa età e quindi se lo devono sposare, mamma e papà saranno contenti e loro saranno sacrificate sull'altare dell'amore indissolubile. Se ci sposiamo, a quel punto è considerato divorzio nel non matrimonio, funziona così. Quando si sta da soli e ci si decide di non sposarci, è tutto più difficile. I regali veri ce li meritiamo noi. Abbiamo comunicato ai nostri genitori la data del nostro non matrimonio. Ogni genitore si commuove quando sa che il proprio figlio non si sposa. Sono convinto che mamma e papà sicuramente si commuoveranno quando diremo il fatidico no, ma sarà bello così. Perlomeno avranno la certezza, una speranza che sia un'unione d'amore, che non sia un'unione fatta per formalismo, per formalità, per obbedire a regole e convenzioni familiari. Mi scrive Simona, si è sposata 4 anni fa, non ha voluto il filmino, ha risparmiato sulle bomboniere, ma ha devoluto tutto quello che hanno speso a un canile privato. E ha chiesto agli amici di non affiggere i manifestini con i nomi degli sposi lungo il tragitto. Beh, non ha voluto nulla delle cerimonie e ha destinato tutto ciò che avrebbe speso per il matrimonio per i poveri cuccioli abbandonati. Anche questa è una scelta di vita. Damiano, buongiorno. Ciao. Non riempa il silenzio con il silenzio, sennò parte la motosega. Cerchi me? Sì, è Damiano, quanti ce ne stanno? Sì, è uno. E allora rispondi. Sono qua. Sì, hai telefonato, avrei qualcosa da dire. Certo. Allora, io volevo fare un'osservazione sui filmini e sul fatto che sicuramente una delle cose che non verrà usata nel caso in cui uno si risposi sono proprio i filmini. Cioè, è una cosa che i futuri eventuali partner non vorranno vedere e soprattutto se poi uno... ci ha litigato, non vorrà assolutamente vedere quella splendida cerimonia con tutte quei soldi spesi a filmare. Quindi lei mi suggerisce, noi abbiamo spesso parlato della riverginazione quotidiana degli SMS dal cellulare, spostato questo problema a un più ampio spettro, un'esperienza più complessa come quella del matrimonio, è la riverginazione della videoteca familiare. Lei dovrà cancellare dalle sue videocassette, dall'hard disk del suo registratore digitale, da tutto ciò che ha in casa, le tracce fotografiche e filmate del matrimonio precedente. Ma indubbiamente, ma anche tutti i soldi spesi per fare questi incredibili filmati, questa cosa, cioè veramente... Li trova buttati lei? Io secondo me sì, io vorrei sapere chi si va a riguardare il filmato del matrimonio precedente, vorrei saperlo. Sì, lei pone un problema lievemente più complesso, nel fatto che il matrimonio poi non abbia questo carattere di unicità, o le cose sono andate in quella maniera... Uno si trova un'imbarazzante cineteca di precedenti che può creare qualche problema. Io penso che ci saranno, immagino, 800240024, chi avesse testimonianze, una sorta di rituale propiziatorio di fronte al nuovo promesso sposo o promessa sposa, si fa il rituale della cancellazione dei filmati precedenti, un po' come brucia le foto di lui, butta via i regali, tieni ancora le cose di lui o di lei e devi cancellare la tua vita. Uno li mette le cassette dentro e cancella tutto. Oppure da fuoco al nastro, oppure se è un DVD lo sovrascrive con le foto del nuovo matrimonio. Forse andrà in questa direzione, lei cosa dice? Bene, dai. Vabbè, bene, arrivederci. Ha rischiato la sega. Luca, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Bene, allora, io ho un'amica che vivendo all'università, però è una grande città del nord, no? Però lei è meridionale, a un certo punto ha conosciuto un divorziato, ha deciso di mettere su famiglia e di avere 2 gemelli. A questo punto... No, scusi, come ha fatto a decidere di avere 2 gemelli? No, lei e il suo compagno hanno messo al mondo 2 gemelli. Cioè, ma non è che l'hanno deciso prima? Certo, hanno deciso. Hanno detto facciamo 2 gemelli, no, tutto è possibile. Solo no, per... vabbè, no, scusi, no, vabbè, hanno detto no. Facciamo un figlio e sono venuto 2 gemelli. Io, siccome è una mia carissima amica, do per scontato che ha 2 gemelli, ecco. Hanno deciso di anche procreare, diciamo, mettere su una famiglia. Vabbè. Lui era in attesa dell'annullamento. Allora, cosa fare quando queste 2 persone con questi bambini scendono al paese? Non possono dire alla nonnina o alla vicina di casa, io sto con un divorziato. Ecco, perché non possono dirlo? perché c'era tutto ancora con questa mentalità. Vabbè, a peggio schiatterà dal dolore la nonnina, non mi sembra un danno per l'umanità profondo. Non lo so, lei questo timore, a questo punto abbiamo fatto il matrimonio. L'avete fatta contenta? Cioè sì, per la vecchia avete fatto un matrimonio finto? Allora, lei che cosa ha fatto? Da questa città, diciamo Milano per dire, dove era all'università, ha mandato a tutti i parenti del paese l'invito che si sarebbe sposata in una chiesa di Barcellona addirittura. Chi voleva venire era ben accetto. Naturalmente nessuno va a Barcellona. Naturalmente nessuno va a Barcellona, hanno mandato i regali. Noi abbiamo fatto in una chiesa che era di quel momento, però la fortuna è che questa chiesa era allestita per un altro matrimonio. Una cosa pazzesca, in una pieve siamo andati, in una collina. E questa chiesa era all'estero, quindi era perfetta. Io che facevo quando ero ragazzo animatore, sono entrato in sacrestia, ho visto l'abito del prete e ho detto: ma me lo posso mettere un attimo? Quindi ho detto: basta che lo rimetta a posto. Quindi lei ha fatto il prete, abbiamo finalmente un testimone. È la mia amica. Ma lo sa che è un atto di blasfemia profondo? No, io non è che ho messo. No, non io. Beh, però se è vestito da prete in una chiesa di fronte a una coppia di sposi. No, vabbè. Io non sono il suo censore, però per farle capire che non è una bella cosa. Vabbè, ma era tutto, in questo caso era veramente... Beh, comunque si amavano e quindi in nome dell'amore penso che sarà perdonato, non sono queste, penso, le colpe che gridano vendetta al cospetto di Dio. Beh, siamo arrivati alla conclusione della trasmissione, mi scuso con Debora che chiameremo un'altra occasione, che aveva un'importante testimonianza, ma abbiamo capito che in fondo le grida che vengono fatte contro l'eccessiva cura dell'aspetto formale del matrimonio forse non tenevano conto di questi aspetti fantasiosi, fantasmagorici e architettonici del l'immaginario che l'umanità è riuscita a contenere e immaginarsi naturalmente, perché il rituale rimanga intatto anche se poi la sostanza che dovrebbe rappresentare è variata notevolmente nel corso dei tempi. A domani. Segreteria telefonica 828 11 11. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0